minchia, mi sta picchiando Cristo! Forza! Canta, mesaudu! Que te do mano, dimmi tu un po' confuso. Lo pensiero mi scappa, entra la testa si imbroglia un po' confuso. Si ridi mi confondi, si parli mi scombini, mi fai girare a testa sì. E quando canti mi scanto, ma dopo riro tanto, perché se tu mi fai sentire un po' confuso. Minchia, ma quando sei bravo? Minchia, sogno bravo a parare e a cantare in siciliano, ho capisti?